ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser. Traduzione di Emilio Castellani. Tredicesima puntata. Supposto che fossi soldato, e io per natura sono un soldato esemplare, un semplice soldato di fanteria, e che servissi sotto le bandiere di Napoleone, un bel giorno mi metterei in marcia verso la Russia. Coi compagni mi intenderei bene, giacché la miseria, le privazioni e le innumerevoli brutalità commesse insieme ci stringerebbero come in un blocco di ferro. I nostri sguardi sarebbero trucemente puntati in avanti. Sì, nella rabbia, nella furia ottusa e incosciente ci sentiremmo uniti e marceremmo sempre col fucile a tracolla. Attraverseremmo delle città dove folle d'uomini oziosi, indolenti, demoralizzati dal ritmo dei nostri passi, starebbero a guardarci con tanto d'occhi. Ma a un certo punto non ci sarebbero più città, o solo rarissime, bensì distese interminabili che scivolerebbero ai nostri occhi e ai nostri piedi verso il remoto orizzonte. Sarebbe proprio come se il terreno strisciasse, scivolasse, e allora comincerebbe a nevicare e saremmo ricoperti dalla neve, ma andremmo avanti lo stesso. Tutto ormai sarebbe affidato alle gambe. Per ore i miei occhi rimarrebbero fissi sul suolo bagnato. Avrei tutto il tempo per pentirmi, per muovermi accuse a non finire. Però terrei sempre il passo, getterei avanti marzialmente le gambe e non smetterei di marciare. Ma ormai la nostra marcia sarebbe piuttosto simile al trotto. Qua e là, lontanissimo, si profilerebbe qualche rilievo, sottile come una lama di coltello, una specie di foresta, e noi si saprebbe che oltre quella foresta, al cui margine arriveremmo dopo parecchie ore, si stenderebbero nuove sterminate pianure. Di tanto in tanto si udrebbero degli spari e quei colpi isolati ci ricorderebbero quello che ci aspetta, la battaglia che un giorno dovremo combattere, e la marcia proseguirebbe. Di qua e di là, tristi in viso, cavalcherebbero gli ufficiali, mentre quasi spinti da paura presaga, gli aiutanti di campo frusterebbero le loro rozze a fianco della colonna in cammino. Noi si penserebbe all'imperatore, al condottiero, oscuramente sì, ma pur tuttavia raffigurandocelo, e così ci consoleremmo. E sempre avanti a marciare. Una quantità di piccoli, ma durissimi, ostacoli arresterebbero per brevi intervalli la nostra avanzata, ma ce ne accorgeremmo appena e marceremmo innanzi. Allora mi assalirebbero i ricordi. Ricordi non chiari, eppure nitidissimi. Si accanirebbero sul mio cuore come belve su una preda insperata. Mi riporterebbero indietro a visioni familiari della patria, alla dorata, tondeggiante collina di vigneti, cinta di dolci nebbie. Udrei il suono dei campanacci delle mucche rintoccarmi nell'anima, un cielo colmo di carezze, acquoso, ricco di toni, mi coprirebbe del suo arco. Il dolore mi farebbe quasi impazzire, e tuttavia non interromperei la marcia. I miei compagni a destra e a sinistra, quello che mi precede e quello che mi segue, significherebbero tutto, e la gamba farebbe il suo lavoro, macchina vecchia ma sempre docile. Villaggi in fiamme fornirebbero agli occhi uno spettacolo quotidiano, privo ormai d'ogni interesse, e le più inumane atrocità non desterebbero alcuna meraviglia. Ed ecco che una sera, nel freddo che si va facendo sempre più crudo, il mio compagno, Charner potrebbe chiamarsi, cadrebbe a terra. Io farei per aiutarlo a rialzarsi, ma lascialo stare, comanderebbe l'ufficiale, e la nostra marcia proseguirebbe. Poi, un giorno a mezzodì, vedremmo il nostro imperatore, lo vedremmo in viso, però sorridente, incantevole. Sì, lui non ci penserebbe nemmeno a snervare e a scoraggiare col cipiglio i suoi soldati. Certi della vittoria, già vincitori in anticipo di future battaglie, marceremmo avanti nella neve e finalmente, dopo marce interminabili, arriverebbe il momento dello scontro e potrebbe darsi che io rimanessi vivo e continuassi a marciare. «Adesso si va a Mosca, di», direbbe uno della nostra fila. Io rinuncerei a rispondergli, non so bene per qual motivo. Sarei solo una piccola rotellina nella macchina di una grande impresa, non più un uomo. Non saprei più nulla dei miei genitori, né di parenti, o di canzoni, o di crucci personali, o di speranze. Nulla del significato e della dolcezza della patria. La disciplina e la pazienza proprie del soldato avrebbero fatto del mio corpo un grumo compatto, impenetrabile, quasi interamente svuotato di contenuto. E così si andrebbe avanti, in direzione di Mosca. Non maledirei la vita. Da un pezzo sarebbe stata anche troppo degna di maledizione. Non proverei più dolore, il dolore coi suoi fulminei soprassalti. Da un pezzo avrei smesso e finito di sentirlo. Questo, credo, vorrebbe più o meno dire essere soldato sotto Napoleone. «Sei un bel campione, tu», m'ha detto Kraus, senza nessuna ragione al mondo, in verità. «Sei di quelli che, per quanto poco valgano, vogliono apparire superiori ai buoni insegnamenti. Lo so io, taci. Per te io non sono che un pedagogo acido, uno che vuol sempre averla vinta. Fammi il piacere. Che cosa sentite, tu e i tuoi simili, pavoni che siete, a proposito di ciò che realmente significa essere seri, essere attenti? La tua leggerezza di saltatore, di funambolo, ti autorizza, nel vero e senza dubbio con pieno diritto, a immaginarti padrone di regni? Oh mio ballerino, ti leggo in trasparenza. Riderti sempre di quello che è giusto e decoroso, ecco quel che sai fare, quello in cui sei bravissimo. Sì, sì, in questo siete maestri, tu e gli altri del tuo ceppo. Ma sta attento, sta attento. Per amor vostro non sono certamente stati ancora aboliti i temporali, i lampi e i tuoni e i rovesci di fortuna. Non è che per grazia vostra di voi artisti, che questo siete, dopo tutto, l'uomo che lavora, l'uomo che semplicemente vive, incontri tutto a un tratto meno difficoltà. Imparala a memoria, questa che dovrebbe sempre servirti di lezione, invece di volermi dimostrare che puoi dileggiarmi. Guardatelo, il signorino. Vuol dimostrarmi che può andare a petto in fuori purché ne abbia voglia. Lascia che te lo dica. Kraus semplicemente disprezza codeste meschine pagliacciate. Fa qualcosa. Non basterebbe una dozzina di nodi su quel tuo naso petulante per ricordartelo. Vuoi saperne una, Jacob, caro il mio re dell'esistenza? Lasciami in pace. Va pure in cerca di conquiste. Qualcuna, ne son certo, ti cascherà davanti ai piedi e non avrai che da raccoglierla. Si sa, tutto vi lusinga, tutto vi viene incontro a voi imbroglioncelli. Che? Ti tieni ancora le mani in tasca? Beh, lo capisco. Quando a uno gli cadono i piccioni arrostiti in bocca, per che ragione mai dovrebbe sforzarsi a darsi le arie di chi sappia cosa vuol dire agire, lavorare, affaticarsi manualmente? Su, fa ancora uno sbadiglio, per favore, così l'effetto si perfeziona. Altrimenti hai un aspetto troppo raccolto, troppo controllato, troppo modesto. Oppure vuoi impartirmi qualche precetto? Avanti, fallo. Sono tutto orecchi. Ah, via, gira, al largo. Questa tua presenza, idiota, non fa altro che scombussolarmi. Razza di... A momenti te ne dicevo una. Perfino dei termini peccaminosi ti tira fuori di bocca sto provocatore di scandali che non è altro. Sparisci dalla visuale, oppure datti da fare in qualche modo. E davanti ai direttori tu, sì, tu, perdi ogni decoro. L'ho già constatato. Ma perché sto a parlare con un pulcinella come te? Confessa che saresti molto simpatico se non fossi un buffone. Se me lo confessi, ti getto le braccia al collo. Oh Kraus, carissimo fra tutti, gli dissi, tu mi schernisci? Mi prendi in giro? Può farlo un Kraus? È possibile? Scoppiai in una gran risata e mi avviai lemme lemme verso la mia camera. Presto nel nostro istituto ogni cosa camminerà lemme lemme. Si ha l'impressione di qualcosa di simile ai giorni contati. Ma ci si sbaglia. Forse si sbaglia anche la signorina Beniamenta e forse anche il signor direttore. Tutti, forse, ci sbagliamo. Ora sono un creso. Certo, per quanto riguarda il prezioso denaro, zitto, non parliamo di soldi. Vivo una strana doppia vita. Una vita regolata e una sregolata, una controllata e una incontrollata, una semplice e un'altra complicatissima. Che cosa vuol dire il signor Beniamenta quando confessa di non aver mai amato un essere umano? Che cosa può significare il fatto che lui dica questo a me, suo allievo e schiavo? Sì, certo, gli allievi sono schiavi. Giovani foglie strappate ai rami e ai tronchi, travolte dal turbine spietato e d'altronde già un po' ingiallite. È un turbine, il signor Beniamenta? Perfettamente credibile, poiché già molte volte ho avuto modo di percepire il frastuono e la collera di questo turbine, il suo cupo scatenarsi. E poi è così onnipotente, mentre io l'allievo sono una tale inezia. Zitto, non parliamo di onnipotenza. A usare le grandi parole si sbaglia sempre. Il signor Beniamenta è esposto ai vacillamenti e alle debolezze, esposto a un punto tale da far quasi ridere, da far sogghignare addirittura. Tutto è debolezza, tutto, credo, ha da tremare come i vermi. Ed ecco che questa illuminazione, questa certezza mi rende un creso, cioè un Kraus. Kraus non ama né odia niente, per questo è un creso. C'è in lui qualcosa che rasenta l'invulnerabile. È come una roccia. E la vita, la tempestosa ondata, si frange contro le sue virtù. La sua natura, il suo essere stesso sono interamente addobbati di virtù. A fatica lo si può amare, quanto a odiarlo non se ne parla nemmeno. Ciò che è grazioso e attraente piace, e appunto per questo il bello e il grazioso corrono in tal misura il rischio di venir divorati o usati malamente. Vicino a Kraus non osano avventurarsi le struggenti, divoranti delicatezze della vita, e lui se ne sta lì, così sperduto in verità, ma pur tuttavia così saldo, così inaccostabile, come un semidio. Ma è una cosa che nessuno capisce. E io stesso, a volte io parlo e penso al di sopra delle mie facoltà intellettuali. Per questo forse avrei dovuto farmi pastore, capo di qualche setta o movimento religioso. Lo posso ancora, del resto. Posso ancora fare di me tutto il pensabile. Ma Beniamenta, lo so di sicuro, presto o tardi mi racconterà la storia della sua vita. Si sentirà smanioso di aprirsi, di raccontare. È molto probabile e strano a dirsi, a volte ho l'impressione che non debba mai staccarmi da quest'uomo, da questo gigante, come se lui e io ci fossimo fusi in un solo corpo. Ma gli sbagli sono sempre possibili. Calmo voglio essere, calmo in un certo modo. Non troppo però, questo neanche. Essere troppo calmi equivarrebbe a essere troppo sfacciati. Perché aspettarmi grandi cose dalla vita? È inevitabile? Sono qualcosa di così minuscolo io. Questo soltanto è il punto che tengo incondizionatamente fermo. Il fatto che sono piccino, piccino e spregevole. E la signorina Beniamenta davvero morirà? A questo non oso pensare e nemmeno lo posso. Un sentimento più alto di me lo vieta. No, non sono un creso. E quanto alla doppia vita, ciascuno in realtà ne ha una. Perché farsene un vanto? Ah, tutti questi pensieri, questi desideri strani, questo cercare, questo tender la mano verso un significato. Poter sognare, poter dormire e lasciare che quel che ha da avvenire venga. Sì, che venga. Scrivo in una fretta febbrile. Tremo in tutte le membra e davanti agli occhi mi saltellano fiamme simili a fuochi fatui. Qualcosa di tremendo è avvenuto. Sembra che sia avvenuto. Mi rendo a malapena conto di me stesso e di ciò che è stato. Il signor Beniamenta ha avuto un accesso e ha tentato di strozzarmi. Davvero? Oimè. Ogni capacità di pensiero mi abbandona e non riesco a dirmi se è vero ciò che è accaduto poco fa. Ma dallo scompiglio che mi domina capisco che è vero. Il direttore montò in una furia indescrivibile. Sembrava Sansone, quel tale della storia della Palestina che scrollò le colonne di un alto edificio pieno di gente finché il palazzo festante e lascivo, il trionfo di pietra, la malvagità stessa, rovinò al suolo. Qui però, intendo fino appena a un'ora fa, non c'era nessuna malvagità né infamia da rovesciare e neppure c'erano colonne o pilastri, ma pareva proprio che fosse così, esattamente così, e io fui preso da una paura mai finora conosciuta, una paura conigliesca, terribile. Sì, sono stato un coniglio e in verità ho avuto anche motivo di fuggire come un coniglio, altrimenti me la sarei certamente vista brutta. Con una, non posso definirla altrimenti, prodigiosa prestezza, mi sottrassi ai suoi pugni che si rinchiudevano e credo di avergli dato al grosso signor Beniamenta, al gigante Golia, un bel morso in un dito. Forse fu questo morso rapido ed energico che mi salvò. È molto probabile che il dolore causatogli dalla ferita lo abbia richiamato tutto a un tratto a un contegno decoroso, alla ragione, all'umanità. Sicché può darsi che sia debitore della mia vita all'aver così brutalmente violato le buone regole di uno scolaro. Sicuramente ho corso da vicino il pericolo di essere soffocato. Ma com'è potuto avvenire tutto questo? Come è stato possibile? Si è scagliato su di me come uno spiritato. Con tutto il peso del suo corpaccione mi si è gettato sopra come un oscuro macigno di frenesia ammattita. Mi è venuto addosso come un cavallone che volesse stritolarmi contro le dure muraglie acquee. Cosa sto vaneggiando di acqua? Parole senza senso, d'accordo, ma mi sento ancora tutto stordito, tutto confuso e sconvolto. Che cosa sta facendo, caro, venerato signor direttore, eh? Gli gridai mentre come un ossesso correvo verso la porta dell'ufficio e quando fui fuori mi rimisi a origliare. Appena mi trovai sano e salvo in corridoio e benché tremassi in tutto il corpo, posi l'orecchio al buco della serratura e ascoltai. Udii una risata sommessa. Mi precipitai al mio banco ed eccomi seduto qui, senza sapere se è stato un sogno oppure realtà. No, no. È vero, verissimo. Oh, se soltanto venisse Kraus. Ho un po' paura, francamente. Quanto mi piacerebbe se venisse quel buon Kraus. E come fa tante volte mi desse una lavatina di capo. Avrei voglia di essere un po' sgridato, redarguito, strapazzato e strigliato. Mi farebbe un bene da non dirsi. Sono dunque un bambino? In realtà non sono mai stato un bambino. E proprio per questo, ne sono assolutamente certo, rimarrà sempre in me qualcosa che ricorda l'infanzia. Sono soltanto cresciuto, sono invecchiato, ma l'essenza non è cambiata. A fare sciocchezze provo esattamente lo stesso gusto che molti anni fa, ma la realtà è che non ne ho mai fatte. Una volta, da piccolo, feci un buco in testa a mio fratello. Ma quella fu una cosa che capitò, non una sciocchezza. Certo, di sciocchezze e di ragazzate ne ha commesse in abbondanza, ma era sempre l'idea quella che mi interessava più della cosa in sé. Ho cominciato presto a trovare dappertutto, anche nelle sciocchezze, un senso profondo. Insomma, non mi sviluppo. Questa, naturalmente, è solo una mia idea. Forse non metterò mai né rami né ramoscelli. Un giorno dal mio intimo e dal mio germogliare emanerà chissà quale profumo. Sarò fiore e profumerò un poco, quasi per mio proprio piacere. E poi questo mio capo, questo che Krauss chiama una stupida zucca superba, finirà col reclinare. Braccia e gambe mi ciondoleranno in maniera strana e tutto, spirito, fierezza, carattere, tutto si spezzerà e appassirà e sarò morto, non morto sul serio, ma così, morto in un certo modo. E magari andrò avanti per 60 anni a vivere e morire così. Diventerò vecchio, ma non ho paura di me. Non mi ispiro proprio nessuna paura. Non rispetto affatto il mio io. Lo sto solo a vedere e mi lascia del tutto freddo. Oh, entrare nel tepore. Che bellezza. Al tepore ci potrò sempre giungere. Perché mai nulla di personale, di egoistico, mi impedirà di riscaldarmi, di infiammarmi, di partecipare. Come sono felice di non poter vedere in me nulla che sia degno d'attenzione, di contemplazione. Esser piccolo e rimanerlo. E se mai un'occasione, un'onda mi sollevasse e mi portasse in alto, dove domina la forza e il prestigio, manderei in pezzi le circostanze che mi hanno avvantaggiato e getterei me stesso giù nel buio, infimo e insignificante. Solo nelle regioni inferiori riesco a respirare.